Italia in controluce. E se fosse stato un italiano ad uccidere a Milano Niguarda al posto del picconatore Cabobo? 14 maggio 13:30 in studio Daniele Biacchesi per una nuova puntata di Italia in controluce. Il titolo sembrerà forte, ma è una domanda che in molti si pongono. E se al posto del ghanese Cabobo, in giro quella mattina di sabato con il piccone ad ammazzare persone nel quartiere di Milano Niguarda, ci fosse stato il tuo vicino di casa, italiano? Tutto accade nelle ore in cui si registra la morte della terza vittima del ghanese e le polemiche politiche diventano sempre più acute tra le opposizioni, Lega e PDL. Il PDL chiede l'esercito a Milano e la giunta guidata da Giuliano Pisapia sulla sicurezza nel capoluogo lombardo. E voi che cosa ne pensate? 349-238-6666. Avete anche la pagina di Radio 24 Italia in controllo luce, la pagina su Facebook e su Twitter è Radio 24 in controluce, tutto attaccato, quindi potete fare ciò che credete o scrivere in SMS i vostri pensieri, come sempre al 349-238-6666, sfruttare e utilizzare la pagina di Radio 24 Italia in controluce, o se siete solo su Twitter cercare Radio 24 in controluce e daremo già alcune cose sono già arrivate. Lorenzo Masi, per esempio, sulla pagina di Radio 24 Italia in controluce scrive che la strumentalizzazione è evidente, che la violenza va condannata sempre da chiunque arrivi, ma capire le ragioni, migliorare le condizioni di vita, promuovere i diritti e garantire la solidarietà nelle situazioni peggiori che tutti possono vivere, sono gli strumenti che come persone e società dobbiamo attivare per non fare di questi episodi la quotidianità. A me sembra molto bella come immagine quello che scrive il nostro ascoltatore sulla pagina di Facebook Radio 24 Italia in controluce. Tanto cominciano a arrivare gli SMS, vabbè, ce ne sono già moltissime, adesso ve le leggerò. Cominciamo subito con chi è al governo in Lombardia, cioè con la Lega Nord. Cristina Carpinelli ha intervistato Iezzi, esponente della Lega, proprio su queste durissime affermazioni che la Lega ha fatto contro la giunta Pisapia. Innanzitutto ci chiediamo com'è possibile che una persona a Milano, tra l'altro in una zona sì periferica ma non lontana da Milano, nel senso che lì c'è uno dei principali ospedali della nostra città, il Niguarda, in una zona del genere un criminale possa girare indisturbato per un'ora e mezza andando di piccone a destra e a manca senza che nessuno lo fermi. Evidentemente c'è un problema di assenza totale di qualsiasi tipo di presidio, sia sul fronte della sicurezza che sul fronte sociale. Ma però, mi scusi, le voglio fare questa domanda perché a me ha molto colpito il fatto che per un'ora e mezza, come dice lei, una persona va in giro col piccone e nessuno allerta le forze dell'ordine. Quindi... No, ma il problema, guardi, questa cosa qua del nessuno allerta è una cosa che contesto. Il problema è che non c'era nessuno per diversi motivi, perché la polizia non riesce a stare dietro a tutto e il comune non ha fatto nulla. Infatti io ho parlato di presidi sociali e di sicurezza. Perché? Perché adesso faccio un esempio stupido, ma per capire cosa intendo. Se ci fosse stata una piazzolina dove parcheggiava l'ambulanza, vedendo passare uno col piccone, l'ambulanza avrebbe chiamato, no? Guardi, io ne faccio una questione molto complessa, nel senso che qui c'è una questione di immigrazione illegale, di una persona che non doveva essere qua, perché questo era clandestino e doveva essere espulso. Mi chiedo come mai i magistrati ci abbiano messo così tanto, lui era ancora sotto processo, aveva fatto richiesta d'asilo che gli era stata, se ho capito bene quello che ho letto, non vorrei sbagliare per carità, gli era stata negata e lui aveva fatto ricorso, quindi c'è una giustizia che è lentissima e che dovrebbe procedere molto più velocemente. Evidentemente ci sono magistrati che si occupano di tante altre cose, non di queste cose che sono essenziali, ma io aggiungerei anche un altro fattore: chi gli ha dato l'avvocato a sto cuore? piacerebbe sapere quali sono le associazioni che gli hanno dato gli avvocati, se ci sono state associazioni che in questi anni, in questi mesi di sua permanenza sul territorio gli hanno dato una mano, ci sono associazioni che prestano i loro avvocati proprio a queste persone per fare i ricorsi, per mettere i bastoni tra le ruote della giustizia, cioè ci sono una vicenda sulla quale bisognerebbe riflettere sotto molti punti. Beh, però in uno Stato democratico la giustizia è uguale per tutti, per cui c'è, cioè, uno ha diritto alla difesa, per carità, e anche per carità. Io non perché uno è straniero. Assolutamente. Prendo atto che ci sono, potrebbe essere così, sono domande che, ai quali il ministro prima o poi dovrà venire in aula, alla Camera, al Senato, a rispondere. Allora, cominciamo con Twitter sul nostro spazio che si chiama Radio 24 in controluce. Vergognosi gli italiani, scrive Alex De Jong, che per ore non hanno chiamato la polizia. Nessuna giustificazione. Un altro, ci sono più cellulari che persone in un'ora e mezza, nessuno chiama il 113, dice Tobia Brunello, che poco prima aveva postato sempre su Twitter un altro suo ragionamento, che due settimane fa un italiano ha sparato a due carabinieri a caso, e si riferisce a Preiti. Non mi sembra molto diversi, sono invece centinaia gli sms, sono arrivati 349 238 6666. Bisogna vedere da che parte è l'Italia, se era Terrone non cambiava nulla, dice, e questo è il clima. Fallimento della legge Bossi-Fini e la Lega che fa campagna elettorale, scrive Nando da Cagliari. Scrivo da Pavia, tutte le notti vengono razziate decine di appartamenti e automobili, mi chiedo chi è il prefetto e cosa fa per la nostra città, quando i centri di accoglienza li gestiva Gheddafi di queste cose ne capitavano pochissime. Cosa cambierebbe? Sempre tre morti sarebbero. Questo pazzo deve essere internato e deve pagare. Un altro ascoltatore, Giuseppe da Milano, mi sarei accanito contro l'italiano come ho fatto con Cabobo. Perlomeno non sarei passato per razzista. Sarebbe passato, secondo Lidia, come un brutto episodio di violenza senza strumentalizzare. Sono di sinistra, ma chiuderei le frontiere al sud del mondo, scrive Renato da Milano. Mi sembra che questa volta la popolazione abbia reagito molto meglio della classe politica, scrive Alberto. Un altro parla di pena di morte, Sandro, per il Ganese, pena di morte. E ha fatto quello che ha fatto perché è pazzo, non perché è ganese, scrive Lirio da Ferrara. E se invece una volta negato l'asilo se ne fosse andato via, dice un'altra ascoltatrice, Gabella da Roma, intanto togliamo di mezzo gli stranieri, poi agli italiani. Il ganese dei noatri, dice Sergio da Milano, si chiama Luigi Preiti. Manuel da Padova scrive che avremmo avuto un italiano malato, non è necessario importarne dall'estero. Questi sono solo alcuni degli sms arrivati, ma sono ancora molti e continuano ad arrivare su Twitter e su Facebook. Continuiamo così. Naturalmente anche l'intervista ad Umberto Ambrosoli e quella a Iezzi la vedrete, l'ascolterete tra poco sul nostro sito radio24.it, che come sapete è la nostra vetrina, il luogo in cui potete sentire, ascoltare tutto quello che va in onda. Ci sentiamo domani come sempre a quest'ora, Italia in controluce.